Io sono in ogni luogo. Io sono dentro di voi. Sono dentro ognuno di voi che ascoltate. Guardatevi dentro e mi troverete lì. E io vi saluterò. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Italia sì. Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita, prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no, comando omicida. Onorevoli deputati, a nome del governo autorizzata dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti. Deputati, lasciate terminare la ministra. Deputati, per favore. Deputati, per favore. Bianconi, deputato Bianconi, la richiamo all'ordine. Rimango fantasma, io fantasma non sarò, e al tuo plasma dico no. Se dimentichi le pinze, fischiettando ti dirò. Oggi noi ci troviamo di fronte a un funerale e ai funerali si partecipa con i crisantemi. Voi avete deciso di fare il funerale della democrazia. Vergognatevi. Deputati di Sel, non si lanciano fiori in aula, per favore. Questo è stato il momento top, togliete i crisantemi. Italia sì, Italia no, Italia chiami, se famo lo spaghi. Vitrale, prerogativa costituzionale. Chi è che ha deputato De Lorenzis? La richiamo all'ordine, lei non può esprimersi in questo modo nei confronti della presidenza. Lei ha ne detto dovrà cornuta, rispondere. Collusa, non si capisce. Collusa, cornuta. Ah. Continuate con insulti perché non sapete argomentare. Dunque, insultate pure, insultate, liberi di insultare. Io sto dando motivazioni ad una scelta e voi come rispondete con l'insulto? Complimenti. Complimenti, complimenti. Però anche una signora come la Boldrini, la presidenta Boldrini, che vede dei fiori in aula e dice: non si lanciano fiori in aula. Togliete quei crisantemi. Ah, togliete quei crisantemi. Secondo me è stato uno dei momenti più alti della storia della Repubblica Italiana e delle sedute della Camera dei Deputati. Togliete quei crisantemi. Vabbè, che seduta, come dire, leggermente movimentata, eh? Poi i giornali raccontano che in realtà le parole più forti sono state come sempre di Maurizio Bianconi, che ieri ho visto poi seduto pacatamente nel salotto buono della nostra Paola Saluzzi, che saluto Paoletta, era tutto lì pacato Bianconi, tutto lì. 2015, oh, mamma. Evviva le rosse, torna ma diventa, evviva la Paola, eccola. Paola Saluzzi e Paola Saluzzi, special guest, Paola Saluzzi e altri fittizi di cui non ce ne frega assolutamente tutto, nulla. Tutto lì tranquillo, tutto lì. Sempre, no, ringrazio come sempre. Lui era un bambino bravo. Tutto elegante, sì, in aula, bravo, in aula, in aula ha urlato maiali infami rotti in culo. Non lo diciamo, ma l'ha detto, infatti io dovevo leggere. C'è un'agenzia tra le tante insomma, delle, chi aveva alzato la voce, avesse alzato la voce o lanciato appunto fiori, ho detto: onorevole Bianconi, sarà presto nostro ospite. Ho detto, però non si ha riuscito. No, no, perché lui è dottor Jekyll e Mr. Hyde. Lui va in aula. Maiali, mi ha detto, maiali. Maiali sì. Nello spazio, voi ricordate, insomma, vecchio meraviglioso Muppet Show. Ma torniamo sulla terra. No, non dire tra l'altro la parola maiali, che qui da due giorni non pensiamo altro che ai maiali. Voi non sapete forse perché. Tu ieri, non so se hai ascoltato fino in chiusura di trasmissione. Fino alle 9, vabbè, dopo magari ve lo facciamo risentire. Sì, allora, insomma, va bene, non lo dico, ma insomma riferivo a ciò che avesse detto l'onorevole Bianconi. Sono volati pezzi. Sono volati. Oltre ai crisantemi, sono volati veramente pezzi. Sì, sono volate veramente parole grosse ieri alla Camera per la fiducia posta da Matteo Renzi sul governo, sulla legge elettorale. Cos'è? Vabbè. Che è dedicata a Paola. Paola. Ivan Graziani. Ma qui sì, esatto, si riconosco però commossa, ringrazio. La tua nuova colonna sonora. Il primo mattina avete già stato in Rumain My Day. Bene. Sì, bene. Allora, siamo qui. Che dire? E che dire? Salutiamo Luca Dini, il direttore di Vanity Fair. Eccolo là. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Ciao, direttore. Eccoci qua. Allora, insieme al nostro Lorenzo Nespoli e Peter Bescapè, siamo pronti qui ad aprire il Parlamento. Dai, che ormai dovremo togliere Benigni tra poco, perché la legge elettorale la provano, quindi non so. Dopo 104 settimane ci hanno terremotato la sigla e non siamo qui tutti a capire. Mo che facciamo? Non possiamo più mettere Benigni. Tu, Luca Dini, hai un'idea da suggerirci? Per che io faccio? Lascerei. Lo lasceresti? Ma sì. Non lo so, però dobbiamo porre la questione. Faremo un brainstorming e capire che fare. Lo lasciamo, e chi se ne frega? Ha un suo perché. Vabbè, oggi guardiamo i titoli, e non solo i titoli, basta sentire la Camera, parlano tutti di fascismo è la parola più giusta, fascismo di Renzi, fascismo come Scelba, come la legge Acerbo, come la legge truffa del 53, cioè due leggi elettorali, una del fascismo e una del 53, considerate appunto leggi truffa, soprattutto quella Acerbo. Caro Luca Dini, qua volano parole grosse. Sì, troppo grosse. Sì, però diciamo qua rischia di spaccare il Partito Democratico. Cioè, c'è Bersani che oggi dice sul Corriere: è la natura di Renzi non è una bella natura. Come dire, lo sapevamo. Che questa è la natura di Renzi, e poi soprattutto anche un po' mi verrebbe da dire: chi se ne frega? Ah. Sì. Io francamente non capisco, cioè sembra che non è un golpe questo, cioè, sono stati usati gli strumenti che il diciamo che la vita parlamentare permette. E quindi, insomma, sapevano tutti che sarebbero stati usati. Si dice da settimane che Renzi sarebbe andato avanti e se ne sarebbe fregato di quello che pensava Bersani, e così è stato. Io continuo a non capire. Continuo a non capire perché questo fermento, no, a dare del fascismo. No, e poi è molto, ho anche la sensazione che sia molto tutta una recita, cioè come ieri appunto i crisantemi erano tutti pronti a fare quello che si sapeva che avrebbero fatto. Con il risultato che si sapeva che avrebbero ottenuto, cioè niente. Sì, effettivamente. Niente sarà, perché alla fine già si contano forse in 40 del PD usciranno, ma in realtà alla fine la legge elettorale è chiaro che passerà, no? Paola, tu che ieri hai parlato con tutti i politici da Bianconi. Sì, tutti. la questione è il dopo, cioè la legge in sé passerà. Il problema vero che si pone è ciò che accadrà dopo, cioè il resto delle riforme, e se volete anche lo stato d'animo o comunque la temperatura per le prossime, per tutto ciò che dovrà essere prossimamente approvato. Questo è sicuramente all'interno del Partito Democratico. Io non credo che nessuno sapesse che si sarebbe arrivati a questo, insomma, sì. I motori erano pronti, no? Per l'una e per l'altra soluzione. È arrivata questa, sapranno bene che cosa fare. Non so se una spaccatura interna possa essere una scelta saggia. Ma poi sai, la spaccatura, ma se ne parla da tutti. Cioè, c'è Civati che ancora dice stavolta o me ne vado o mi cacciano. Ma è due anni che dice così. Ecco, non gioco più. Non gioco più. Ecco, potrebbe essere... Non certo, insomma, lasciamolo dov'è, per carità, è sacro, ma non gioco più, ci sta anche come sigla, come parasigla, è più che altro adesso è da vedere tutto ciò che accade dopo, cioè, ora l'attenzione si sposta su scuola, e lì 5 maggio e fu, hai voglia a combattere, a lottare, capire che cosa sarà il dopo. La legge elettorale è andata così, cioè quando Renzi scrive... Sono mesi che ci lavoriamo sopra, che discutiamo sopra, comunica quello che è avvenuto. Poi che la discussione abbia portato a questo, beh. Mi fa notare un ascoltatore che Rosy Bindi ha detto: questa fretta sulla legge elettorale è sospetta. Ma come fretta? Sono 10 anni che aspettiamo una legge elettorale. Non sto dicendo che la legge elettorale questa sia la migliore, sia giusta, non lo so. C'è chi mi chiede anche un parere sulla legge elettorale, ma secondo voi, io sono un tecnico per capire come è fatta questa legge elettorale. Capisci? Non si è tecnici, e la legge elettorale la deve spiegare. Chi la vota? Forse il professor Dalimonte è l'unico in Italia che può spiegarci cos'è una legge elettorale. Io di legge elettorale non so nulla. Di legge elettorale è sospetto anche che si scaldi tanto su questa legge elettorale, che poi alla fine veramente a volte ti chiedi anche se questi che lanciano i crisantemi eccetera abbiano veramente ce l'abbiano veramente con la legge elettorale, o ce l'abbiano semplicemente con la ineluttabilità del fatto che il governo andrà avanti per la sua strada. Sì, su questo poi bisognerà vedere, perché ci sono le varie versioni. C'è chi dice che, visto che c'è la legge elettorale, adesso sarà più facile andare a trovare il pretesto per andare a votare. C'è chi dice invece di no, ma questo, come dire, ma glielo stanno dando il pretesto, però, come dire, cioè, come si suol dire, lo scopriremo solo vivendo. Alessandro, quando si parla di fretta, vivienda, altra sigla, altra sigla, esatto. Altra sigla. Mi viene da pensare come quando nel nostro paese dicono ma è giovane, perché uno a 35 anni sta facendo, non so come dirti, politica ad alto livello. Ci sono presidenti degli Stati Uniti arrivati su a 42 anni, e non è il caso di Obama, insomma, dai 40 anni in poi ci sono stati Kennedy che, per esempio, come dire, hanno dato il via. È tutto relativo, una cosa discussa per un anno e mezzo È stata abbastanza discussa. Comunque si è parlato soprattutto di fascismo, mentre il pacato Bianconi, che si è seduto dopo aver dato degli infami maiali, si è seduto nel comodo salotto di Sky TG24 pomeriggio da Paola Saluzzi, ha evocato, ha alzato anche un po' il tono. Altro che fascismo, Bianconi. Il Parlamento può mandarmi a casa, cioè io sono un dittatore, faccio come mi pare. In democrazia non funziona così. Hitler lo diceva, io sono un Quando si arriva sulla legge elettorale a evocare Hitler, tu capisci mi sono venuto un po' i capelli dritti, nel senso, poi evocato come, ma lui ha detto mandatemi pure a casa, paragoni un po', ma era un paragone storico, insomma, voleva dare una notazione di carattere storico. Vabbè, diciamo che sulla legge elettorale è andata così. Dai, sentiamo Crozza, che magari ci divertiamo con Crozza. Vediamo se ci fa sorridere sull'Italicum. Renzi ha detto che se non si approva l'Italicum, ne va della dignità del PD. Ora io dico, già è difficile fare la nuova legge elettorale, se adesso ci mettiamo anche a trovare la dignità del PD diventa una mission impossible, ragazzi. Prima proviamo l'Italicum, portiamo la pace nel mondo, poi sconfiggiamo la fame e poi, se avanza del tempo, eventualmente ci concentriamo sulla dignità del PD. Vabbè, questa è crozza. Come finirà? Luca Dini. Azzeccatissimo. Ma come finirà questa storia? Niente, voteranno, legge elettorale, tutti avanti e basta. Grandi polemiche. Sì. Saranno tante polemiche. Abituiamoci, prepariamoci. Siamo pronti. E vediamo che succede. Il 1 maggio si inaugura l'Expo. Ecco, sull'Expo vi voglio chiedere una cosa. Dopo il traffico voglio partire a capire questo. Per esempio, sull'Expo oggi succede questo. Leggo una notizia. Hanno trovato degli antagonisti con delle bombe Molotov, eccetera. Hanno già fatto dei casini in questi giorni. Li hanno arrestati. Li volevano cacciare perché sono stranieri. I giudici hanno detto che non è sufficiente trovare delle bombe Molotov e insomma... No. Con tutto un provvedimento da Zecca Garbugli in legalese che dopo leggerò la rassegna stampa per dire che non è sufficiente per allontanarli e mandarli via dal paese. E quindi il 1 maggio incrociamo le dita, speriamo nelle forze dell'ordine. Falla subito. Chiamiamo le mamme degli antagonisti, che li prendano a ceffoni come ha fatto la mamma americana di Valtimora, la mamma dell'anno. Dove sei tu? Dovevi essere a studiare. Chiamiamo le mamme degli antagonisti. Purtroppo ce n'è una così di mamma, quella a Baltimora. C'è un ragazzo che tirava sassi alla polizia. La mamma è scesa in strada e l'ha accorchiato di mazzate. Dei ceffoni dire non si fa così. Vabbè, dopo il traffico cerchiamo di capire qualcosa anche da questa Expo. Se sarete degli Expo ottimisti o degli Expo gufi. Massima di Confucio. Ogni paese ha il traffico che si merita. Signori, ecco il nostro. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta 24 Mattino. Ma vogliamo dircela finalmente una cosa, noi che abbiamo votato PD alle ultime elezioni? La maggior parte di noi, Renzi, non lo ha votato. Noi abbiamo votato i vari Bersani e compagnia, che per quanto possano stare sulle balle, sono quelli, e li abbiamo votati noi, a noi rispondono, e io mi aspetto che se lo mandino a casa sto Renzi. Lui, la Boschia e la compagnia cantante. Ma che patente, ma quale patente? Questi gli ubriaconi vanno cotti nell'alcol, vanno cotti nell'alcol, proprio alcol a 98 gradi, vanno immersi nella vasca di alcol a 98 gradi e fatti cuocere. Viva il toro! Pensa che adesso tu dovrai imparare l'inno in vietnamita, cinese, giapponese, invece noi del toro lo cantiamo all'italiano. No, Furcone, la fiamma ossidriga, ciao! Senti che bello, Mr. B, questo è tuo inno, Mr. B. Vabbè, vendiamo ai cinesi, ma che problema c'è? Cioè, voglio dire, in Francia hanno venduto... Adesso, no, che problema c'è, caro Luca Dini? Hanno venduto in Francia gli sceicchi, hanno venduto in Inghilterra, adesso infatti. Perché mi pigliano per il culo perché vendiamo il Milan ai cinesi o ai thailandesi o a non so chi, insomma. Noi abbiamo già venduto. Voi avete già... Noi interisti. Infatti, voi Toir, ma cosa? Ma io non lo so. Cioè, questo... Ma insomma è vero che non è cambiato niente. Non è cambiato niente. Allora vi vogliamo informare che c'è una petizione su change.org, una petizione abbastanza ridicola che chiede di iniziare 24 mattino alle ore 6. La petizione ha raccolto finora 26 firme, una roba ridicola. Tipo 5 mesi. Tutti i miei amici, esatto. 26 esatto. Firme, cioè una cosa patetica, eppure stanno cercando di fare questa petizione. Cioè, felice di questa cosa? Ma no, sono felice che abbiano raccolto solo 26 firme, cioè dimostrando dimostrando che la petizione farà pochissimi passi in avanti e naufragherà così nell'oblio. Ma perché tu crei dipendenza? Sì, da 26 persone. No. Guarda, io ho 52 cugini primi, quindi quindi neanche la metà hanno votato questa petizione. Cerchiamo i franchi tiratori. Per no, cui esatto. Sì, comunque adesso che me l'hai detto, quasi. Vabbè. Allora, no, bene. Io vi voglio fare risentire. Tu ieri, Paola Saluzzi, ogni tanto tu ascolti, cioè, mi ascolti anche, sì, anche alle 8:15, alle 9. Ieri però, secondo me, non hai ascoltato la parte finale dei lavoratori, L'hai fatto? No, l'ho fatto. L'hai fatto o no? L'ho fatto. Che detto così sembra l'hai fatto. L'hai fatto, ma sai chi c'era? Sai chi c'era? E non mi vuoi fare interrogazioni, già prima mai. Ma no, ho capito, ma ieri abbiamo trovato caro Lucadini, ieri abbiamo trovato un lavoratore ma incredibile. Tecnicamente si dice così: estrattore di seme dai verri, cioè dai maschi del maiale. E per questo prima l'hai pizzicato, non dovevo dirlo. Appunto, ma tu non mi hai fatto capire se avevi sentito, e quindi io non capivo. Dai, no? Dai, forza, dai. Vabbè, ci ha regalato uno dei momenti più incredibili di radiofonia, dai, con questa frase, no? Con questa frase: estrattore di seme dai verri. Sì. E non solo, sì, comunque sì. No, fammi capire, Gabriele. Tu fai questo lavoro a mano. Sì, si fa a mano come col cavallo, come col toro, come con altri animali, insomma. Cioè, ormai oggigiorno è così, non è più pensabile una monta naturale. C'è una cavallina automatica, anche però ce la devi mettere tu, lo devi aiutare tu, perché da solo non è possibile. Il maiale non... Devi tenere, anche perché l'orgasmo del maiale dura 5-10 minuti, più o meno. Quindi poi si muove, insomma, non è che... sta fermo immobile, insomma, ecco. Mi sembra... è per questo che si dice godo come un maiale, vabbè, su questo, io non e su questa dire... frase ecco Lucadini, un attimo direttore, e tu volevi che io ripetessi commentassi? No, non volevo, ma è un lavoro onestissimo, è un lavoro come gli altri, anzi sì, assolutamente sì. Ma tu volevi che io commentassi? No, ma non volevo che commentassi, volevo solo sapere se tu l'avessi ascoltato. No, tutto non qua. L'ho ascoltato. Cioè, la frase dura 5 minuti, da cui godo come un maiale. Voi capite che è veramente... non si finisce mai di imparare, caro direttore, comunque. Certo. Ecco, esatto. Te lo propongo, se vuoi intervistarlo alla voce lavori particolari, ti do il numero di telefono, perché... potrà dire ho visto maiali felici. Ho visto maiali felici. Ci ha detto anche delle cose fuori onda. Prima di diventare prosciutti. Tipo che il maiale è pigro e quindi ogni tanto bisogna, come dire... Vabbè. Come ride, ma sentilo, non ho parole. Vabbè, insomma, passiamo a Vanity Fair, che è meglio. Allora, Vanity Fair, non ridere anche tu come a scuola, basta, quando ci scoppia la ridarola non si deve più. Allora, basta. Ma sai che a scuola mi mettevano fuori dall'asta? Esatto, anche a me. Io quando mi scoppia da ridere, io sono capace di ridere in tutte le situazioni, anche le più terribili. Ma vi ha parlato basta. Anche della la famosa forma? No, non ci ha parlato della forma a cavatappi? Forse esatto. Quello ce l'ha detto fuori onda. Vabbè, ma non entriamo nei particolari, li leggeremo tutti in una intervista prossima su Vanity Fair. Allora, c'è un Giorgio Armani, urca che bell'uomo, sì. ma avete messo la foto di Giorgio Armani, ma quanti anni ha in questa foto? 45 anni, che avete fatto? Avete intervistato Giorgio Armani a 80 anni, all'alba degli 80 anni, non sono riuscito a sfogliarla, dimmi tu, Luca. Però se ne sente 40, lui dice 45, e quindi... Ma vi ha parlato anche di questa roba, gli omosessuali vestano da uomini? No, siamo stati a larga da quella polemica, poi insomma è la classica cosa che piace tanto ai quotidiani, ma insomma... È un po' la carta costa. Ma vedo adesso chi l'ha fatta. Ti giuro che non è fatta apposta. Gabriele Romagnoli. Sì. Ma Paola Sanuzzi, ma lo conosci questo tipo? Sono già in edicola. No, ma lo conosci questo soggetto? Lo conosco. Sto sfogliando adesso, giuro che non è casuale, è stata fatta dal marito di Paola Sanuzzi. E quindi insomma è tutto fatto in casa, no? Qui abbiamo un'intervista a Vanity Fair. Vabbè, quindi vedo che comincia a occuparsi. Potresti mandare Gabriele Romagnoli come inviato a fare un reportage sulla riproduzione dei... dei... Dei verdi, certo. Ecco, abbandono qui, non lo so, ma non ho parole. Ma voglio dire, ha fatto un servizio su YouPorn di recente, senza averlo detto, tra l'altro, alla moglie. Ha fatto adesso nulla mi viene mai detto, giustamente, è il segreto professionale. Ma voglio aggiungere, ribadisco per i nostri ascoltatori, quest'uomo. Perfido, voleva che io, ma l'hai sentito ieri mattina, sì. Mi ripeti cosa è successo ieri mattina? E secondo te io dovevo ripetere davanti a tutti? Tu mi dovevi semplicemente dire sì, ho sentito che c'era un lavoratore particolare e basta, sì, io avevo ancora capito. E invece dovevo ridere prima ancora di iniziare a dire, ma sì, infatti prima ho detto, ma io... hai menato il camperlaia e quindi io ho dovuto approfondire a capire, sì, vabbè, rimettono qua i tre porcellini. Esatto, vabbè, in chiusura è scoppiata la stupidera, questo è il dato di fatto. Allora, devo salutare il direttore di Vanity Fair, Luca Dini. Alle 3 invece Paola Sanuzzi, tu sei in onda? Certo. Assolutamente sì, sicuramente polemiche sulla legge elettorale e aggiungo, ma questo lo diciamo solo in chiusura, Nepal, diventiamo operativi, facciamo qualcosa, Ne parliamo anche noi oggi alle 8:15, visto che ci sono 10.000 forse purtroppo morti. Sì. Grazie, alla prossima. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta... 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qua, sì, sposto il microfono in onda, che si sente, e va bene, è tutto a posto, siamo un po' trafelati oggi di corsa, cari ascoltatori, sono entrato qui in studio giusto in tempo per la rassegna stampa e oggi parleremo di quello che è successo e sta succedendo in Nepal, la tragedia, altro che arrabattarci per la legge elettorale di cui abbiamo parlato ieri, di cui parleremo nei prossimi giorni, adesso ne parleremo in rassegna stampa. In Nepal forse ci sono 10.000 morti e tra l'altro Reinhold Messner, che sarà nostro ospite, dice attenzione, l'Occidente è egoista, ci sono i soccorsi di serie A, tutti concentrati a capire cosa succede sull'Everest, dove ci sono gli alpinisti in difficoltà e per carità vanno aiutati, e poi si trascurano tutte le popolazioni locali, le persone che hanno davvero bisogno di soldi, ci sono quelli che pagano e ottengono soccorsi e quelli che non hanno niente, i nepalesi, e muoiono nell'indifferenza e soffrono nell'indifferenza. Avremo con noi anche Simone Moro, alpinista, grande nostro amico. Parleremo poi anche di qualche spreco qua e là della politica, in particolare in Sicilia, ma scopriremo tutto più avanti. Ora andiamo a leggere i giornali. È mercoledì 29 aprile, intanto i titoli. Il Sole 24 Ore apre su bot semestrali, prima asta con rendimenti a quota zero. Questo è il titolo, l'effetto quantitative easing sulle emissioni, collocati titoli per 6,5 miliardi. E poi la politica, certamente. La fiducia sull'Italicum lacera il PD, questo è il titolo di prima pagina del Corriere della Sera. Per Repubblica invece, Italicum, la fiducia spacca il PD. Per La Stampa, Renzi, sull'Italicum mi gioco tutto. È una lettera che il Premier scrive, viene pubblicata in prima pagina della Stampa. Per il Fatto Quotidiano, e qui iniziano le critiche dure, Renzi impone la fiducia come Scelba e Mussolini. Il Giornale invece, il voto sull'Italicum, il titolo è Lo spaccone. Per il Messaggero, fiducia a Renzi, il PD si spacca. Mentre Libero a una notizia da cui voglio iniziare, che è lo sciopero che ieri c'è stato a Milano e ha paralizzato i mezzi pubblici a 3 giorni dall'inizio dell'Expo. Il titolo di Libero, come sempre, di quelli che non lasciano sconti: i pirla che sabotano Expo, sindacati e centri sociali. Allora, Libero ovviamente ha una posizione molto molto dura. Nell'editoriale del direttore Maurizio Belpietro si racconta di questo sciopero a Milano, dove astensione dei lavori anche selvaggia alle quali siamo abituate. Stavolta che è successo? È successo che azienda e sindacati si erano messi d'accordo per limitare le ferie in cambio di un bonus con maggiorazione anche del 40% indennità che andavano da 150 a 270 euro, ma i lavoratori e le organizzazioni di base, i CUB, questo non basta, vogliono altre e più generose compensazioni, e dunque a 3 giorni dall'inaugurazione dell'Expo i conducenti di mezzi pubblici hanno pensato di provocare il caos nella metropoli in modo da lanciare un messaggino ai vertici dell'ATM, al sindaco e al governo. La cronaca a pagina 2 di Libero è proprio questa: gli sfaticati vogliono sabotare Expo. Si racconta di 50, forse 60 iscritti alla Confederazione Unitaria di Base su 9.000 dipendenti dell'ATM, eppure facendo leva sul malcontento generale, questo piccolo sindacato, questa piccola sigla, ha paralizzato di fatto Milano e tra l'altro ha deciso di indire un altro sciopero per il 15 maggio, suscitando l'imbarazzo anche del segretario della Federazione Italiana Trasporti della CGIL, Stefano Malorgio, che ha detto: CGIL e CISL e UIL sanno che non possono assumersi l'onere di uno sciopero nel periodo di Expo, ma siamo in un campo che pullula di piccole sigle che si permettono qualsiasi cosa. Io ieri ho twittato, certo per la rabbia anche di essere bloccato totalmente nel traffico, vediamo di restituire i lavori forzati, ma comunque la solita Italietta mi sembra. Ma attenzione, perché il governo pensa, così almeno scrive il Messaggero, di porre un freno a, o un argine a questo rischio. Alberto Gentili racconta a pagina 7 del Messaggero: Expo a rischio, il governo dice niente scioperi per 6 mesi. Milano paralizzata dal blocco della metro a 2 giorni dall'inaugurazione, ora c'è un piano per estendere a tutti i grandi eventi il divieto di fermare i trasporti. Io lo trovo una cosa sacrosanta. Andate a spiegarlo a uno che viene dalla Malesia, che ne so, che il piccolo sindacato blocca e paralizza la città. Le ipotesi allo studio, secondo il Messaggero, sono essenzialmente 3. La prima prevede un referendum preventivo tra i lavoratori sul modello adottato in Germania, Gran Bretagna, Olanda e Danimarca per evitare che la collettività sia danneggiata da uno sciopero con adesioni minime. L'idea è consentire lo sciopero solo se almeno il 50% dei lavoratori, in Germania questa quota sale al 75%, vota a scrutinio segreto a favore della protesta. La seconda ipotesi, che come la prima potrebbe entrare in un decreto, in un disegno di legge, è l'autorizzazione allo sciopero solo ed esclusivamente se le sigle che indicano l'agitazione contano almeno il 50% più uno degli iscritti tra i lavoratori dell'azienda. La terza idea allo studio è quella avanzata dal presidente dell'autorità di garanzia sugli scioperi Alesse, e cioè l'istituzione dei periodi di sospensione degli scioperi, delle vere e proprie moratorie in occasione dei grandi eventi. Il governo ha allo studio queste possibilità per evitare situazioni come quelle di ieri. A proposito di trasporti pubblici, rimango su Libero, dove c'è questa notizia. A pagina 19 Chiara Pellegrini racconta che 4 autisti dell'ATA, che dunque Roma, sono stati licenziati. L'accusa per loro è di scarso rendimento. Avevano accumulato 400 giorni di assenza in 2 anni. 400 giorni di assenza in 2 anni. Nel dettaglio, un autista è risultato assente 163 giorni, uno 214, uno 162, il quarto addirittura 403 giorni. La percentuale dei giorni di malattia tra il 67 e il 74% ricadeva, guarda caso, in contiguità con i giorni di riposo e festività. La decisione, spiega l'ATA, intrapresa dopo un lungo periodo di osservazione. Licenziati 4 autisti ATAC. Vabbè, rimaniamo in Lombardia. L'abbiamo sentito anche nel giornale radio da Raffaella Calandra. Le spese pazze della Regione Lombardia della passata legislatura finiscono ora a processo. Caviale, ma non solo caviale, cene, le cene su tutti, come ha detto il PM Filippini, la politica si fa nei ristoranti, evidentemente, alla Regione Lombardia. Insomma, ricordate tutta la vicenda dei rimborsi elettorali, spese loro, soldi nostri, questa è l'accusa. Rimborsi pazzi al Pirellone, 56 rinvii a processo, 2 anni con rito abbreviato per il PD Spreafico che ha patteggiato. Ha scelto meglio il rito abbreviato, non ha patteggiato, ha scelto il rito abbreviato. Lui, come altri 3 imputati, lui era quello della famosa Nutella. La grande abbuffata, come scrive il Messaggero a pagina 6, del Pirellone è costata ai contribuenti in tutto 2.941.721,29 euro. Questa è la cifra contestata di rimborsi considerati dalla procura illegittimi. Per questo si andrà a processo per 56 di questi ex consiglieri. Vabbè, certo, i più famosi sono Nicole Minetti, le sue famose cene giapponesi, ma anche l'acquisto del libro Mignottocrazia di Paolo Guzzanti sull'era del Bunga Bunga, le cene a base di aragoste di altri consiglieri, il gratta e vinci comprati da altri, e poi c'è il figlio di Umberto Bossi, il trota Renzo, che si distingueva soprattutto per l'acquisto di Fonzis agli autogrill, e molti cocktail, preferibilmente Mojito, Campari e Negroni. Vabbè, insomma, uno che aveva buon gusto, certamente dal punto di vista del bere, ma anche vini, aspirine, sushi, cene da migliaia di euro, spese pazze in regione, Bossi Junior e Laminetti saranno processati. Questo è il titolo di Repubblica, chiaramente sono i 2 nomi più importanti che finiscono sulle prime pagine dei giornali, ma in realtà sono in 56 gli ex consiglieri che finiscono a giudizio. A proposito di queste spese, beh, questa notizia che era apparsa su un giornale locale, ora viene rilanciata dal giornale, riguarda l'ex segretaria di Giancarlo Galan, ex ministro, ex governatore del Veneto, che è finito poi nella vicenda del Mose, ora gli arresti domiciliari. Stefano Zurlo racconta la storia della sua segretaria, ex segretaria, Claudia Minutillo. E la vicenda, che è uscita appunto su un giornale locale, ora conquista una pagina addirittura del giornale. Claudia Minutillo, l'accusatrice di Galan, ora nei guai perché vende un tesoro di borse griffate. Ha deciso di vendere, per pagare anche gli avvocati, tutto ciò che aveva nell'armadio, solo che quando ha venduto quello che aveva nell'armadio si è scoperto che aveva nell'armadio dei pezzi griffati, una cabina da leggenda, borse firmate Hermès, Gucci, Prada, Chanel, una vetrina delle più celebri maison del lusso, ma anche la spia di un tenore di vita altissimo e dunque per Galan stesso sospetto. Ora Claudia Minutillo mette all'asta i pezzi pregiati del suo guardaroba. Ci sono delle borse tipo il modello Birkin dell'Hermès dal valore, beh, alcune di 3.800 euro come la Kelly, omaggio alla mitica Grace Kelly, ma ce ne sono alcune con pelli particolari che toccano quota 44.000 euro. 44.000 euro una borsa. Come ha raccontato al Mattino di Padova la commessa chiacchierona di una boutique esclusiva, quando rimaneva stregata da un capo d'abbigliamento Hermès, già che c'era, ne acquistava 2 o 3, riservando la dovuta attenzione al gusto cromatico. Insomma, una vita da diva, più da Costa Azzurra che da Riviera del Brenta, la corte del Doge di Forza Italia. E così, quando l'inchiesta è emersa e lei ha cominciato ad accusare Galan, i difensori di Galan hanno replicato che forse era proprio lei a non raccontarla giusta, per dire come si poteva permettere questo tenore di vita. E vabbè, ci sono tutte le foto a delle borse, non delle sue, ma insomma il modello, tanto il modello è quello dell'accusatrice di Galan che ora vende un tesoro di borse griffate. Passiamo al momento dell'articolo che ci fa pensare di questa giornata, quello che ci fa tenere le mani strette sul volante per quello che si profila come un venerdì difficile, con le contestazioni in vista dell'Expo. Sentite cosa è successo. Luigi Ferrarella e Gianni Santucci raccontano sul Corriere, guardate il titolo, è Milano, stranieri fermati con le Molotov per il giudice, non vanno allontanati. sono stati fermati degli stranieri nel quartiere Giambellino in aree antagoniste. Un ragazzo tedesco con taniche di benzina, bottiglie stracci per fabbricare Molotov e altre persone straniere. Dunque han detto espelliamoli perché questi stanno preparando dei casini per il venerdì 1 maggio, le contestazioni. Il giudice, con tanto di provvedimento, ha detto che i 4 stranieri individuati per il provvedimento nelle 4 ordinanze di diniego, il presidente facente funzioni Olindo Canali e il giudice Nicola Fascilla obiettano che è troppo poco scrivere che i 4 stranieri sono stati individuati in un edificio che da informazioni in possesso alle autorità era destinato a accogliere soggetti appartenenti all'area anarchica. O è troppo poco scrivere che erano in possesso di oggetti atti a offendere, ma imprecisati. Sono espressioni che non contengono riferimenti individualizzanti sulle condotte che dovrebbero giustificare una limitazione gravissima di diritti fondamentali di cittadini comunitari come l'espulsione, dovendosi invece pretendere a questo fine precise condotte incompatibili con la civile e sicura convivenza. Insomma, lo traduco io: se ci sono casini venerdì all'Expo va bene così. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi cazzo. Alessandro Milan, l'internazionale dell'informazione. E perché ride, caro ascoltatore? Vabbè, allora, che giornata è stata ieri alla Camera? È stata una giornata in cui sono volati insulti di ogni tipo e li trovate sui vari giornali, eh? Collusa, cornuta, coglione, infami, rotti in culo, non è che, voglio dire, è la Camera della Repubblica italiana, quindi non è che potete prendervela con me, e sono riportati tutti i giornali. Quando è successo? Quando il governo ha deciso di porre la fiducia sull'Italicum, cioè la fiducia PD diviso, caos in aula, Renzi se vogliono mi mandino a casa. Tutti i giornali riportano ovviamente intanto la cronaca parlamentare, una cronaca parlamentare che vede il governo superare in mattinata in scioltezza la Camera i primi voti segreti sull'Italicum, 385 voti, 208 dell'opposizione. Nonostante ciò, Renzi non si fida della sua supermaggioranza e azzera gli altri 80 scrutini segreti, imponendo al Parlamento 3 voti di fiducia su altrettanti articoli. Quando il ministro Mariella Boschi annuncia questo, scoppia il putiferio, volano crisantemi da parte di Sell, volano gli insulti anche, e poi ora le accuse, il solito teatrino di rimpiatti, di rimbeccarsi le cose, fascista, no, non è vero, non siamo fascisti, vogliamo decidere. Beh, vi segnalo alcune interviste interessanti. Una è quella di Pierluigi Bersani, intervistato dal Corriere della Sera, pagina 3. Monica Guerzoni. Eccolo qua Bersani: davanti a scelte di questa portata ognuno si assuma le responsabilità, vedremo che fare, poi vedrò cosa fare io. Ma perché secondo lei Renzi ha deciso di forzare? Nella minoranza si parla di prepotenza. Sentite cosa risponde Bersani: lui è in natura così. E com'è la natura di Renzi? Non è una bella natura. Questa è la risposta di Bersani. Io non avevo dubbi che avrebbe messo la fiducia, ma che bisogno c'era? Si dice che la gente non capisca di cosa sta discutendo in Parlamento, ma insomma tocca a me spiegarlo. Il Premier le ha dato una bella sberla mettendo la fiducia, ma guardi che io, se serve di sberle, ne prendo quante volete. Il problema non è Bersani, è l'Italia. E lei se ne va, ma dove posso andare? Sa come diceva Dante, se io vo chi rimane, se io rimango chi va? E poi il finale dell'intervista, Bersani: lei è vero che è pronto a uscire dall'aula per non dover votare sul governo? Abbiamo sbagliato a titolare così sul Corriere? Direi proprio di no. Insomma, Bersani conferma che evidentemente uscirà dall'aula e quindi non voterà la fiducia, cioè pur di non votare, pur di non dover decidere se votare sì o no la fiducia, non si presenterà in aula al momento del voto sull'Italicum. Renzi dice: il partito è con me, in un retroscena interessante di pagina 2 e 3 di Repubblica. C'è il motivo, come dire, ufficioso per cui è stata messa la fiducia. Poi vedremo che Renzi lo spiega personalmente in una lettera pubblicata in prima pagina dalla Stampa. Ma secondo il retroscena di Francesco Bei su Repubblica, la verità è questa: su un paio di emendamenti, come quello che prevedeva l'apparentamento dei partiti più piccoli al secondo turno, saremmo andati sotto. E allora ci avrebbero rimandati al Senato, rischiavamo di finire nella palude, e allora o facciamo passare la legge oppure non passerà mai più. Sulla legge elettorale, una riforma che serve al Paese, tutto il mondo si aspetta da noi, i miei predecessori si sono impantanati da Prodi a Letta. Io non voglio fare la loro fine, non mi rassegno. Così Renzi ha detto ai suoi, e quindi, col rischio di andare sotto su un paio di emendamenti, dice... meglio la fiducia. Riguardo a chi non voterà la fiducia, Renzi preferisce al momento non rispondere, cioè chi non vota la fiducia del PD è fuori dal partito. La mia sensazione è quella di non prendere provvedimenti, ma vedremo. In realtà Renzi spiega in prima persona il perché di tutto ciò in una lettera pubblicata appunto dalla Stampa in prima pagina. Così i cittadini sapranno di Matteo Renzi. Caro direttore, dunque la lettera inviata al direttore Mario Calabresi, il dibattito sulla legge elettorale è molto acceso. Credo che i toni dipendano in larga parte da un giudizio duro e molto diviso sull'azione mia e del governo, rispetto naturalmente ogni diversa valutazione. Poi Renzi dice e scrive: la verità, vi prego, sull'Italicum, la verità fuori dalla rappresentazione drammatica di chi grida l'attentato alla democrazia o chi considera fascista la scelta di mettere la fiducia sulla legge elettorale, ignorando che fu De Gasperi a farlo, affidandone le ragioni in Parlamento a Moro, due grandi democratici, due grandi antifascisti. Dunque la verità, solo la verità sull'Italicum. Questa legge elettorale prevede un ballottaggio come per i sindaci, anche se la percentuale necessaria a evitarlo scende al 40%. Attribuisce 340 deputati a chi vince l'elezione, al primo e al secondo turno. Più o meno la metà degli eletti sarà espressione di un collegio grande, poco meno di una provincia media, e l'altra metà verrà eletta con preferenze, al massimo due, di cui una donna. La soglia di sbarramento per venire incontro alle richieste di minoranza è stata abbassata al 3%, in Germania per intenderci al 5%. Il premio viene attribuito alla lista vincente, non più alla condizione, insomma, alla coalizione. Insomma, il mio sogno è che in Italia si sfidino due partiti sul modello democratici repubblicani in America. Ma indipendentemente dai sogni, si impedisce di rifare le solite ammucchiate elettorali chiamate coalizioni. Insomma, argomenta Renzi, l'Italicum non sarà perfetto, come nessuna legge elettorale è perfetta, ma è una legge seria e rigorosa che consente all'Italia di avere stabilità e rappresentanza. La nuova legge elettorale promessa nel 2006 non si è realizzata, promessa nella legislatura successiva, non portata a termine né durante il governo Berlusconi né quello Monti. È stata promessa nella legislatura da Letta, ma il suo iter si bloccò. Adesso ci siamo. Che facciamo? Facciamo altre modifiche per ripartire da capo? La legge elettorale perfetta esiste solo nei sogni. Decidiamo o continuiamo a rimandare? Mettere la fiducia è un gesto di serietà verso i cittadini. Questo è il parere di Matteo Renzi, il Presidente del Consiglio. Lo potete leggere più lungo in prima pagina e poi continua a pagina 3 della Stampa. Certo, su questo si consuma un grande scontro. Ora il tema è telenovela, puntata numero 9843. Ci sarà la scissione nel Partito Democratico oppure poi alla fine tutto rientra? Ci sono persone come Boccia che dice: la mia base mi dice di votare la fiducia. Alla fine Civati che dice: io se non mi cacciano, se non vado via, mi cacceranno loro alla fine. Insomma, il timore, la sensazione che poi alla fin fine passerà l'Italicum, questo ormai è abbastanza chiaro e non succederà più o meno niente. Comunque, la tentazione degli ex leader del PD, scrive Repubblica con Giovanna Casadio a pagina 6, è quella di fare la scissione e il ritorno all'Ulivo. Chi vivrà, vedrà. Dall'altra parte invece Berlusconi è un Berlusconi distratto. secondo il Corriere della Sera, questo aggettivo, lo sguardo distratto di Berlusconi, chiuso ad Arcore a sistemare le sue cose, soprattutto la sorte delle aziende, la sorte del Milan. Berlusconi segue con apparente distacco il terremoto che sembra colpire i palazzi della politica. Tanto, dice Berlusconi ai suoi, secondo il Corriere della Sera, sarà Renzi a stabilire con la sua spregiudicatezza quando e se si andrà a votare. A proposito di Milan, salto sul Sole 24 Ore perché Marco Bellinazzo racconta una delle preoccupazioni di Berlusconi, e anche mia, e anche di Peter Bescapè, e di milioni di italiani, quelli che sono l'Italia più sana, sono le sorti del Milan come squadra di calcio. Fininvest pronta a cedere il Milan, pagina 29 di Finanza e Mercati. Sapete che c'è Mr. B, dal cognome impronunciabile thailandese qui in Italia, quindi basta chiamarlo Mr. B che ci siamo capiti. Ecco l'offerta che Mr. B presenterà a Berlusconi: 500 milioni per rilevare il 51% del Milan. Prendere o lasciare, perché la lunga attesa coi tanti, troppi rumori di sottofondo, le voci destabilizzanti circolate sui media hanno infastidito la cordata che il broker thailandese ha coalizzato intorno al sogno di portare in Asia il brand rossonero. Stasera, ad Arcore, i colloqui ristretti tra le parti saranno da dentro o fuori, non ci saranno fumate grigie. L'intento è diffondere domattina un comunicato ufficiale con l'annuncio della conclusione della trattativa, positiva o negativa. Ovviamente Mr. B è convinto che non ci siano ragioni per un fallimento. L'ottimismo e la sua capacità di dialogo sono state del resto il perno di questo affare. Il primo pilastro dell'alleanza Mr. B lo ha trovato non a Dubai, dove risiede lo sponsor principale del club rossonero, cioè Fly Emirates, ma ad Abu Dhabi. Si tratta della ADS Securities, società di brokeraggio finanziario in forte espansione, che ha sia clienti istituzionali come banche, hedge fund, gestori patrimoniali e istituzioni finanziarie divise tra Europa, Medio Oriente e Asia, sia clienti privati. Il fondatore chairman è Mahmoud Ibrahim Al-Mahmoud, che in passato ha guidato il team dedicato agli investimenti alternativi dell'Abu Dhabi Investment Authority dello sceicco Al-Mansur, che è già proprietario dal 2008 del Manchester City. E dunque, che facciamo? Finiamo non solo ai cinesi, ma anche agli arabi. Questo almeno secondo l'offerta di Mr. B. Stasera, da Berlusconi, l'idea è prendere o lasciare. Che succederà? Il traffico. Uè, le sfile traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Fornetti caldi per tutti, Alessandro Milan, il Perozzi dell'informazione. Grandi amici miei, allora, rimango sul Sole 24 Ore perché è arrivata una sentenza importante della Cassazione che riguarda la lista Falciani. Ricordate la vicenda, abbiamo anche avuto ospite Hervé Falciani, colui che lavorava alla banca HSBC e ha trafugato una lista di correntisti. E che succede? Si è posto il problema in questa lista di correntisti ci sono anche alcuni che potrebbero essere accusati di evasione fiscale. Ora le varie procure dei vari stati vogliono impossessarsi, chiedono questa lista Falciani. Il problema è, il dibattito è lecito usare in un procedimento, in un processo, una lista che è stata trafugata e che quindi è stata recuperata attraverso un illecito penale? La Cassazione ha stabilito di sì. È legittimo l'utilizzo della lista Falciani. Laura Ambrosi e Antonio Iorio, nella prima pagina di Norme e Tributi del Sole 24 Ore, i dati della lista Falciani sono utilizzabili nell'accertamento tributario, in quanto l'amministrazione finanziaria nel contrasto all'evasione fiscale può avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, con la sola esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o siano stati acquisiti in violazione di un diritto del contribuente. Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione con due ordinanze depositate e con cui si risolve la questione dell'utilizzabilità delle informazioni estere a favore del fisco. La lista Falciani è un elenco sottratto dall'ex dipendente della banca svizzera contenente i nominativi di presunti correntisti esteri e presunti evasori, tra questi ci sono anche 7.000 contribuenti italiani. E ovviamente adesso la Cassazione, visto che è entrato in vari procedimenti, ha pronunciato questa ordinanza a dire si possono utilizzare in processo. Per la cronaca, Libero secondo me oggi fa una pagina interessante sulla questione dei i profughi o coloro che fanno la domanda. Che coloro che vengono qui, i migranti, e poi fanno una domanda perché dicono siamo fuggiamo dalle guerre, abbiamo diritto allo status di profughi o di rifugiati. Ecco perché è interessante questa pagina, perché ci si chiede sempre ma chi decide queste cose? Ci sono delle commissioni e oggi Libero racconta come lavorano queste commissioni. Dino Bondavalli lo fa a pagina 10, fa anche un colloquio con una commissaria che dice per capire se meritano l'asilo cerchiamo notizie anche su Google. Il problema è che l'Italia, dove attualmente ci sono 65.000 immigrati in attesa che la loro domanda di asilo politico sia valutata, si fatica a gestire questa enorme mole di profughi. Perché ci sono le commissioni insediate, ma pensate che riescono a stabilire 18 cause al giorno, non di più. Immaginate che ogni persona non ha i documenti, ognuno parla una lingua diversa, c'è bisogno degli interpreti. In queste commissioni operano quotidianamente, sono formate da chi? Da un rappresentante dello Stato, uno della pubblica sicurezza, uno dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, uno dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Sono loro, con l'aiuto di interpreti, che affiancano di volta in volta chi ha presentato domanda di asilo politico. Dice una commissaria Libero: le difficoltà sono molte. Innanzitutto, praticamente nessuno degli immigrati ha i documenti di identità. È escluso qualsiasi ricorso all'ambasciata o alla rappresentanza consolare del paese da cui il profugo dichiara di provenire. Trattandosi di persone che dichiarano di essere in pericolo di vita, non possiamo certo utilizzare questo canale perché gli esporrebbe un rischio. Gli indicatori più importanti sono dunque la lingua, i dialetti parlati dal profugo, i dettagli che emergono dal racconto riguardo la fuga, il viaggio che li hanno condotti in Italia. Ci si basa sulla lingua come indicatore della zona di provenienza. Voi immaginate il lavoro certosino, si riescono a stabilire solo e a esaminare 18 cause al giorno e sono state insediate anche più commissioni. E questo va a ingolfare, a tenere sospese le pratiche, tanto che la lista d'attesa delle pratiche di chi chiede lo status di che la propria pratica venga esaminata, già siamo in lista d'attesa che arriva al 2016, scavalla già all'anno prossimo. Noi parleremo anche di Nepal, ci sono tante notizie sui giornali riguardante ancora il Nepal, dove ci potrebbero essere 10.000 vittime, ci sono ancora 10 italiani dispersi, c'è l'accusa di Messner, che sentiremo anche ai nostri microfoni, e dice ci sono soccorsi di serie A per tutti gli alpinisti, ricchi occidentali che pagano migliaia di dollari e vanno sull'Everest e quindi hanno gli elicotteri e hanno tutta la possibilità di avere tutti i soccorsi migliori del mondo, quando invece i nepalesi, popolo di disperati e di persone che tra i più poveri al mondo, vengono abbandonati a se stessi. Questo è un po' il timore che c'è in Nepal. Per rimanere all'estero, ci sono tanti articoli sulla vicenda di Baltimora, dove ci sono scontri razziali dopo che la polizia ha fermato un ragazzo nero. E questo ragazzo nero è morto dopo l'arresto. Si tratta di Terence Kellum. Scatta anche a Detroit la protesta, dove Terence Kellum è stato ucciso in casa sua. È un altro caso, questo di Detroit, dove già a Baltimora sta succedendo un putiferio. A Detroit ora si rischia di aprire quest'altro fronte di un altro ragazzo di colore ucciso. Era sospettato di rapina, è stato ucciso in casa sua da un agente. Secondo alcune versioni aveva in mano un martello, ma secondo altre era disarmato. Insomma, il rapporto tra le etnie anche in America continua a essere molto molto problematico. La rivolta dei neri contro la polizia violenta a Baltimora, c'è Federico Rampini che racconta in due pagine su Repubblica questa vicenda, e c'è già un simbolo di tutta questa vicenda. Il simbolo è questa straordinaria mamma, la mamma di Baltimora, quella che vede il proprio figlio che per strada contesta le forze dell'ordine lanciandogli dei sassi, e immortalata in un video, scende da casa, va in strada e prende a schiaffoni il figlio dicendo: così non si fa. Per alcuni è già the mom of the year, la mamma dell'anno, colei che dà una sonora lezione di vita a questo giovane incappucciato. Togliti quella fottuta maschera, al grido e a schiaffoni lo redarguisce così e lo riporta sulla retta via, chissà per quanto. A proposito di retta via, sentite cosa succede ad Avegno, nel Levante genovese, lo racconta Il Secolo XIX in prima pagina. Viene un po' da sorridere, immagino che in realtà la situazione sia molto drammatica, ma viene da sorridere. Il sindaco ha emesso un'ordinanza a Avegno nei confronti di un bullo di 7 anni. Il sindaco lo considera troppo violento e gli vieta di salire a bordo dello scuolabus comunale a 7 anni. Borgo dell'entroterra di Recco, Edoardo Meoli racconta questa storia, un'ordinanza shock, racconta in prima pagina del Secolo XIX. Bullo a 7 anni, il sindaco gli vieta lo scuolabus. E vabbè, ma andiamo di fretta, la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Siamo tornati su Periscope in diretta e si racconta sulla stampa in una pagina con Francesco Olivo qual è la nuova tendenza. Il mattino a loro in bocca, soprattutto in discoteca, eccola la nuova tendenza, una pagina. Ci si sveglia al mattino tipo alle 5 come due coglioni, io, te, Peter Bescapete e Lorenzo Nespoli, mica per andare a lavorare, ma per andare a ballare, per fare un rave party alle 6 del mattino, capite? Capite? Questa è la nuova tendenza, andare a ballare un rave party alle 6 del mattino. Ma chi se ne frega? BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta. Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Che devozzino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Allora, ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:19 minuti. Beh, ieri la giornata in Parlamento, sapete com'è andata a finire, no? Sull'Italicum, più o meno è andata a finire così. Pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti. Deputati, lasciate terminare la ministra! Non consentiremo che quest'Aula venga ridotta a un bivacco di manipoli renziani. Oggi noi ci troviamo di fronte a un funerale e ai funerali si partecipa con i crisantemi. Deputati di Sel, non si lanciano fiori in Aula, per favore, togliete questi crisantemi, togliete questi fiori. Mamma mia, mamma mia. Sapete che c'è? Parliamo di altro. Parliamo di altro! Cara Italietta, parliamo di altro. Parliamo per esempio di quello che succede in Nepal, una tragedia, un'ecatombe. A 4 giorni dal devastante terremoto si parla di 10.000 morti, ma si parla anche di 1 milione di senza tetto. A Kathmandu, la capitale, mancano cibo, acqua, una situazione disastrosa, insomma. E anche un'accusa, che tra poco sentiremo dalla viva voce di Reinhold Messner, a dire l'Occidente si sta comportando al solito, aiuti di serie A e aiuti di serie B, tutti concentrati a quello che succede sull'Everest, a tutti gli alpinisti, a tutte le spedizioni occidentali. E la popolazione del Nepal, invece, una delle popolazioni più povere del mondo, che fine fa? È un po' così, non dico abbandonata perché arrivano gli aiuti internazionali lentamente, ma non se ne parla, non è che fa molta notizia. Voglio salutare un amico di Radio 24, un alpinista, uno dei nostri orgogli mondiali, Simone Moro. Buongiorno, ciao Simone, come stai? Ciao Alessandro, sto molto bene, grazie. Sono fortunatamente a Milano, quindi in Italia. Tu conosci molto bene quei luoghi, ovviamente ci sei stato tante di quelle volte. Che effetto ti fa intanto così a distanza vedere quella terra così ferita? Mi fa un effetto duplice. Il primo mi fa capire che anche questa volta sono stato miracolato, perché io ero in Nepal fino a 2 settimane fa e il mio biglietto di rientro era proprio il giorno del sisma, mi sembra poche ore dopo la prima forte scossa, e ho deciso di anticipare il volo così per una serie di motivi che magari poi vi racconto. E la seconda è che so che il Nepal è un paese che si scoprirà, soprattutto in questo caso, essere un paese completamente solo ed isolato, e dei morti saranno molti, molti di più rispetto a quelli che conosciamo fino ad oggi, perché non c'è neppure, non c'è neppure la possibilità per i nepalesi di andare a un telefono o alla prima strada per dire quanti sono morti dei loro cari. Ecco, ma perché ce lo vuoi raccontare? Io non sono mai stato in Nepal, ma ho letto dei resoconti, per esempio, un paese che sta 8 ore al giorno più o meno con un blackout, ma è vera questa cosa? Sì, sì, d'inverno anche 12 ore. 12 le spalmano durante le 24 ore, quindi d'inverno non ci sono praticamente turisti, e quindi, tra virgolette, si fa meno brutta figura, e quindi le si concentra 12 ore anziché 8, e quando c'è la stagione turistica, solo, anche qui tra virgolette, 8 ore, fondamentalmente di notte, poi a spot durante il giorno, magari subito dopo pranzo, quindi costantemente. È un paese senza elettricità, non adesso. Adesso probabilmente saranno 24 ore di blackout. Ma sempre. Senti Simone, c'è una brutale regola nel mondo del giornalismo che si chiama notiziabilità, cioè cosa rende un fatto più notiziabile rispetto a un altro. E spesso c'è questa dura legge che si dice nelle redazioni, dice vabbè, ma sono morti in 1000, che ne so, in Cina, in 1000 in Cina non fa notizia, mentre se muore un italiano fa più notizia. Però qui siamo, secondo te, a livelli estremi, cioè non dico non considerare, ma considerare veramente morti di serie B tutte quelle persone di cui non sappiamo nulla, di cui forse non sapremo nulla, mentre tutta l'attenzione è sulle persone che tu conosci, gente che sta sull'Everest, gente che vive di questo. Allora, questo capita per due motivi. Il primo è che questi occidentali, quelli del campo base dell'Everest, hanno tutti telefoni satellitari e modem satellitari, quindi sono quelli che più di altri riescono a comunicare le loro necessità e anche la loro tragedia, perché sono morte anche delle persone, e non poche, all'Everest. E vedrai che anche lì ce ne saranno altri che adesso verranno fuori, perché tanti sono ancora dispersi. Quindi questi hanno la possibilità di comunicare, mentre altri, la stragrande maggioranza del Nepal, come ho detto, non può farlo. E quindi chi può tirare su un telefono e dire è morto il mio compagno, sono qui massacrato, è chiaro che viene soccorso per primo. Il secondo motivo è che, e qui bisogna ricordarlo, non esiste il soccorso alpino o una sorta di 118, la protezione civile in Nepal. Ci sono 10 elicotteri privati, di cui solo 6 o 7 riescono ad arrivare anche in alta quota, e essendo privati si possono muovere solo ed esclusivamente se a fronte di un... un paio li hai portati tu, se non sbaglio, tra l'altro. Uno. E mi dissero che ero un pazzo. Adesso spero di non passare per arrogante, forse ero solo visionario, perché volevo creare un'unità di elisoccorso permanente che potesse avere anche dei budget per soccorrere la gente normale. Quindi è chiaro che oggi ci sono, di fatto e non per colpevolezza di chi è soccorso, persone che hanno priorità su altri. Possono chiamarli, possono pagarli. Quindi non esiste neppure un budget per pagare anche i soccorsi in elicottero ai tanti nepalesi, di cui emerge la ragione, sono quelli che hanno realmente bisogno. Perché al campo base, se sei vivo, hai da mangiare, hai già la tenda, non sei sotto un tetto, hai il telefono satellitare e hai il generatore di corrente o pannelli solari. Insomma, in qualche modo ti arrangi. Vogliamo sentirlo allora, Simone, Reinhold Messner. L'ho sentito poco fa e gli ho chiesto perché ha considerato e considera soccorsi di serie A e di serie B quello che sta succedendo in Nepal. Perché all'inizio di questo soccorso in Nepal tutta la concentrazione, specialmente anche dei mass media, andava su chi stava male o anche stava morto sull'Everest, e c'erano i feriti. Al campo base dell'Everest però c'erano 3-4 elicotteri già installati che potevano reagire subito, portare i feriti gravi a Kathmandu, e l'hanno fatto ed era bene. Però poi questi alpinisti, o anche chi pagava bisogna dire, hanno bloccato gli elicotteri che poi servivano sotto. Questa forma di turismo sull'Everest è una cosa terribile. Questi alpinisti tirano via la logistica da chi veramente serve. Lei vede quindi una sorta di egoismo occidentale nei confronti delle popolazioni locali? Non dico egoismo, dico che la gente non pensa a che cosa fa. Poi succede qualche cosa e invece di dire mandiamo tutto il soccorso possibile nei posti dove veramente c'è la grande sciagura con migliaia di morti, no, bloccano gli elicotteri perché hanno i mezzi a pagare. La gente normale in Nepal prende 300 euro all'anno, mentre questi alpinisti spendono 50.000 e anche di più per andare sull'Everest. Che effetto le fa, lei che conosce profondamente quei posti, è molto legata a quei posti, vedere un Nepal così sofferente? No, è terribile, perché conosco la povertà di questa gente. Posso immaginare che nelle vallate Langtang o anche la vallata verso la Napurna, che non è ancora realmente vista dai soccorritori, probabilmente ci sono dei bambini piccoli che non hanno più genitori, che adesso stanno soli nelle montagne. Questa gente non ha la possibilità di pagarsi la clinica. Il Nepal non ha un soldo e bisogna adesso, non soltanto nel momento della tragedia, pensare a loro con empatia, bisogna poi per anni ricostruire, aiutare di ricostruire, perché si tratta di uno dei più bei, però anche dei più poveri paesi del mondo. Allora, questo Simone Moro ci ha detto Reinhold Messner, è tornato anche a concentrarsi sul turismo, il turismo sull'Everest, che per Messner è un qualcosa di deleterio, mi sembra di poter intercettare che per lui ha portato e porta più danni che benefici. Tu Simone che ne pensi? Ma io sposo al 100% quello che ha detto Reinhold Messner nella sua intervista, e sul fatto che porta danni, ed è vero. Se però metto sul piatto della bilancia che le uniche due industrie del Nepal sono quella agricola e quella turistica, beh, proverei a mettere delle regole per deviare questi turisti, anziché tutti sull'Everest, su tante altre montagne più basse e più facili, ma non li vorrei cacciare via dal Nepal, perché questi sono una forma di risorsa. E anche Rainer, che conosco molto bene e che incontrerò tra pochi giorni per fare un incontro internazionale proprio su a Bolzano Castelsignano, parlando di questi problemi, so che anche lui vorrebbe evitare che ci sia questa gente che paga 70.000 euro sull'Everest, ma vorrebbe tenerle in Nepal, magari, certo, facesse accompagnare su delle montagnette. Ma come mai non si crea questo sbilanciamento per cui c'è un aumento sproporzionato anche di turisti che portano quindi soldi, pagano queste cifre, eppure ci ha detto che in media il nepalese guadagna 300 euro l'anno. È vero, l'anno, è verissimo. Cioè, come mai non si riesce? Evidentemente perché questi soldi che arrivano vengono poi ripartiti tra poche persone? Allora, la valle dell'Everest è una delle valli più ricche del Nepal, se non la più ricca. Chiaro. Quella parallela, ma sto parlando di distanze come può essere tra la Val Brembana e la Val Seriana a Bergamo, quella parallela del Makalu, la gente gira ancora a piedi nudi, e non c'è nessun impianto di telefonia mobile. Al campo base dell'Everest posso chiamare in 3G, in roaming col mio cellulare con il quale sto facendo l'intervista con voi. In quella in parte non c'hanno né elettricità, né telefono, né nulla. Quindi c'è uno sbilanciamento assurdo. C'erano 900 persone adesso al campo base dell'Everest. Però adesso sono d'accordo con Reino, adesso c'è bisogno non solo di soldi, ma di attenzione longeva verso il Nepal. Perché adesso il Nepal cosa dovrà fare? Dovrà rinascere e ricostruirsi. Ecco, lo scrivevo anche ieri sul Corriere, sì, della Sera, in altri articoli, sarebbe bello che l'assistenza che noi possiamo dare al Nepal sia anche per una ricostruzione che, seppur sarà povera perché non hanno soldi, sia fatta con tecnologie che oggi esistono, antisismiche e sicure, perché questa gente qui veramente dovrà ricostruirsi tutto portandosi in groppa il cemento, portandosi sì. in groppa. Però vuol dire che c'è anche uno stato centrale, se c'è, io parlo da ignorante, che funziona poco. Se mi dici che a due vallate di distanza, una la ricchezza dell'Everest e quella a fianco non ha nulla e quindi soccombe nella povertà più assoluta. Prima della mia intervista sentivo questo intervento su come funziona l'italica politica, sì. non è che il Nepal sia molto diverso, immagino. La mia grossa paura è che adesso arrivano un sacco di soldi a Kathmandu, chissà perché da Kathmandu si muoveranno pochino, e quindi sì, non è un difetto solo italico, tutto il mondo è paese, insomma. Sì, tra l'altro, se noi ci ragioniamo, il Nepal è incastrato tra due superpotenze, l'India e la Cina, quindi sarebbe anche un posto strategicamente, detto proprio in maniera fredda, interessante andare ed aiutare davvero, perché sei in un paese che è ricchissimo d'acqua ed è ricchissimo anche di potenziali fonti energetiche, anche pulite, anche generate dall'acqua, ed è per questo che i cinesi stanno costruendo strade, ponti, vogliono costruire addirittura il tunnel sotto l'Everest, perché ricordiamoci che la catena dell'Himalaya, del Karakorum, del Pamir, del Tien Shan, che sono le più alte e longeve riserve d'acqua dolce del pianeta, hanno tutte un proprietario per il 50%, che è la Cina. Sì. Dall'altra parte c'è Bhutan, Tibet, Pakistan e così via. E quindi questo sarebbe anche un paese strategicamente importante da aiutare, perché non solo è povero, non solo ha bisogno, ma ha bisogno di tutto, di qualsiasi tipo di tecnologia. L'Italia, che è uno dei paesi tecnologicamente avanzati, anche se non abbiamo risorse, potrebbe essere un partner molto molto interessante, e quindi c'è bisogno di dare una mano non solo adesso, ma infatti una mano anche perché la ricostruzione sarà una ricostruzione molto molto molto lenta, al di là, come ha detto Meissner, dell'empatia iniziale. Sì, è vero. Simone, io mi devo fermare qui e ti ringrazio moltissimo. Intanto, quando è che ripartirai per quelle zone? A questo punto adesso sto coordinando parecchio gli aiuti, tu sai che giù lavoro anche come pilota, ci sono giù due piloti italiani adesso, quindi c'è un pezzo di elicottero d'Italia, per l'appunto virtuoso, piloti chiaro. Quindi un pezzo d'Italia c'è, ripartirò presto, penso. Va bene, grazie Simone Moro per essere stato grazie con noi. Noi ci fermiamo, dopo la pubblicità invece verremo a cose più italiche, per l'appunto. Ricordiamo la questione Rimborsopoli, la questione soprattutto in Sicilia, ora viene fuori, secondo la denuncia di una consigliera deputata regionale del Movimento 5 Stelle in Sicilia, uno scandalo verrebbe fuori al comune di Acireale, dove si spendono, denuncia questa consigliera, 340.000 euro per fare sopralluoghi a presepi viventi, per partecipare a tombolate, per fare grigliate. Ecco appunto, tutto il mondo è paese. Sarà davvero così tra poco. Allora, sono le 8:36 minuti, dopo aver parlato del Nepal, della tragedia di questo paese, vogliamo parlare di quello che succede, almeno secondo le denunce di una consigliera, di una deputata, si chiamano così, deputati dell'Assemblea regionale siciliana del Movimento 5 Stelle nel comune di Acireale. La deputata è Angela Foti, che saluto, buongiorno Angela Foti, buongiorno, benvenuta, buongiorno, anche se voi non so, a volte non vi dobbiamo chiamare deputati, cittadini, come la devo chiamare? Va bene, deputata, sì, va bene. No, mi può chiamare serenamente Angela. Angela, va benissimo, va benissimo. Poi allora, chiaramente durante gli impegni istituzionali bisogna chiamarsi così. Ho un ruolo e vengo chiamata così, ma non mi metto a discutere. Questa etichetta. D'altronde tutti siamo onorevoli, quindi alla fine ritengo che tutti i cittadini, quindi ritengo che non ci sia nulla di offensivo. Allora, voi avete denunciato che cosa? Quello che sarebbero le spese del comune di Acireale, 340.000 euro a fare che soprattutto? Abbiamo chiesto gli atti ufficialmente in maniera trasparente al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, semplicemente per capire e poter seguire meglio i lavori della nostra giovane giunta, a cui come movimento civico non siamo stati eletti alle ultime elezioni. Volevamo dare un contributo seguendo i lavori, insomma tante associazioni, tanti movimenti civici collaborano con la giunta, provano a dare dei suggerimenti, e quindi abbiamo deciso di innestarci sui loro lavori cercando di conoscere il contenuto delle riunioni in modo da poter collaborare fattivamente. E cosa avete scoperto? È stata un po' amara, ecco. Che cosa avete scoperto? Abbiamo scoperto che l'attività era davvero intensa paragonata ad altri comuni, abbiamo sforato le 800 sedute. I numeri li abbiamo pubblicati proprio nel dettaglio, ma voglio arrotondare per difetto e chiedendoci ma di cosa parleranno. Abbiamo perso un bel po' di tempo a dare un'occhiata a destra e manca ai verbali, suddividendoci i lavori per tematica. Ogni commissione, ognuna delle otto, ha delle tematiche diverse. E nella stragrande maggioranza dei casi abbiamo trovato che le riunioni così frequenti non superano l'ora e un quarto, sì. Ricordiamo che il minimo da regolamento Però Fotti, qua c'è il cellulare che prende un po' male. Dove si trova? Stia un attimo ferma in una zona. Mi faccia capire, cioè avete studiato tutte queste commissioni, mi faccia degli esempi concreti di che cosa avete scoperto che il comune di Acireale fa. E insomma, sono noti quelli che ci hanno lasciati davvero stupefatti. Non lo so, io cioè, forse sta usando il viva voce, io non la sentiamo, proviamo a richiamarla perché non si sente niente, quindi si sente la voce che va e viene e quindi siamo un po' in difficoltà. Allora, lo voglio riepilogare io, mentre voglio salutare il presidente del Consiglio Comunale di Acireale, provincia di Catania, ovviamente, buongiorno. Rosario Raneri, buongiorno Raneri. Buongiorno a lei. Allora, l'accusa è di avere spese per... che cosa? Vi grigliate oppure visite, missioni tra pastorelli e mangiatoie, quindi visite ai sopralluoghi, ai presepi viventi, tombolate e poi e perché ride? Guardi dottore, io sono veramente rammaricato e offeso da queste accuse, perché noi oggi balziamo agli onori della cronica per alcuni elementi descrittivi del verbale delle commissioni consigliari. Oggi noi balziamo agli onori della cronaca perché andiamo a visitare, andiamo a descrivere il pacchino, il pappagallo, la grigliata, il bue e l'asinello. Non è assolutamente in questo modo, io respingo categoricamente queste accuse. Ma cioè, queste cose le avete fatte? Perché guardi che anche lei il cellulare si sente male, io non lo so, ma ad Acireale avete un ponte della Telecom? No, io la sento benissimo. Sì, infatti il problema è che non è tanto che non l'ascolto bene, io magari sono gli ascoltatori che fanno fatica a capire. Queste spese non le avete fatte? Ma non abbiamo fatto queste commissioni per andare a descrivere il pacchino o per andare a guardare il pappagallo o per ammirare il bue e l'asinello. L'onorevole Angelo Foti sta parlando di 10-20 verbali più 850, quindi sta parlando solamente di un numero limitato di verbali in cui forse sono stati descritti in modo puntuale e colorito alcuni elementi. Per esempio, mi dica che cosa di colorito è stato fatto. E allora, io vedo il caso per esempio del tacchino, perché è diventato famoso in tutta Italia. Purtroppo non abbiamo avuto la stessa amplificazione negativa quando siamo stati... Cioè una commissione del comune è andata... No, ma lo spiego! È andata a visitare la gabbia dei pavoni. Assolutamente! Certamente so che questa è una battuta d'effetto, grazie. Ma non le dico che una commissione è andata a visitare invece una biofattoria sociale e didattica e aveva uno scopo ben preciso. Oggi sono contento che abbiamo il comunicato del proprietario di questa azienda, di questa biofattoria sociale e didattica, che non è più che noi uno sconosciuto, è un socio fondatore dell'AIAB Sicilia, l'Associazione Italiana Agricoltura Biologica. Ma perché ci sono andati? Perché desideravano avere assieme a questo signore, che ricordo è un esperto in materia, delle delucidazioni due suggerimenti per creare un progetto legale, quindi uno. Quindi lei dice siamo andati a vedere una biofattoria didattica, non è tanto che siamo andati a vedere la gabbia del pavone. Io non è che la voglio tagliare, ma veramente anche molti mi scrivono messaggi a dire che si fa fatica a capire, proprio il collegamento telefonico è uno di quelli che mi innervosisco, anche tocco dentro il microfono. Non so, abbiamo ripristinato il collegamento, non so, Foti, se la sentiamo sì, meglio. Sono qui. Ecco, adesso la sentiamo un po' meglio. No, dice Raneri che avete preso 10 verbali o 20 su 850, per esempio, e avete estrapolato alcune cose. Per esempio dice siamo andati a vedere una biofattoria, sì c'è scritto che ci siamo fermati davanti alla gabbia dei pavoni e vabbè, ma eravamo a vedere una biofattoria, una cosa molto seria che la commissione comunale deve fare. Sì, sì, tengo a precisare al presidente che hanno fatto bene a visitare, ma lo dovevano fare in forma privata, sinceramente intanto erano due commissioni congiunte e quella mattina questa visita di due orette in questa trasferta all'aria aperta è costata alle casse comunali 450 euro più due segretari verbalizzanti perché hanno portato con sé. Mi chiedo quante buone cose avrebbe potuto fare il nostro sindaco. Vabbè, che con davvero 450 ogni giorno, euro adesso forti, ogni non giorno esageriamo. Riceve decine euro. Di persone in difficoltà. Tra l'altro trovo sarebbe stato opportuno invece portare magari i dirigenti scolastici che potevano valutare il valore pedagogico, non so fino a punto consigliere sia nella sua veste istituzionale la persona più opportuna che possa andare a visitare senza nulla togliere sa, alla fattoria sa cosa, che conosco, però, no, ma sa cosa affetto. Foti però cioè l'idea è che vi concentrate a volte, appunto lei ha detto questa spesa di 450 euro, adesso per carità bisogna risparmiare anche un euro, ma nel bilancio di un comune 450 euro fanno così scandalo per andare a visitare una biofattoria peraltro, no? Ci sono anche parecchi verbali in cui le commissioni si limitano a presentare il programma per le settimane successive. O la visita al ballo degli anziani per regalare un sorriso agli anziani, che è una cosa lodevolissima, bisogna visitare gli anziani. Ma mi faccia serve. Capire, lei ha il sospetto che queste commissioni venissero fatte anche per farsi dei gettoni, cioè che ma venissero... Io lascio le persone libere di farsi un'idea, cosa che il presidente del consiglio comunale dovrebbe fare pubblicando di volta in volta i verbali e non costringendo i cittadini a fare un accesso agli atti. Gli ricordo che la trasparenza era uno proprio dei punti praticamente di tutti i programmi dei candidati sindaci. Trasparenza, accesso e anche l'attività del consiglio delle commissioni, dato che lo ritiene così importante, così emblematico delle scelte politiche, andrebbe condiviso. Allora, non so, Raneri, la questione è questa, cioè l'accusa di fare delle commissioni un po' inutili. Sul piano economico, noi 10 consiglieri comunali e 2 segretari sono costati 400 euro. L'onorevole Angela Alfotti va a Rimini e prende rimborso speso alla regione più 500 euro di aria. Allora a questo punto come la dobbiamo mettere? Io credo che alcune somme vengono investite anche sia per Angela Foti, per un Angela Foti, ma vengono investite anche per i consiglieri comunali. Noi tutti i sopralluoghi che abbiamo fatto li abbiamo eseguiti per un esatto scopo, poi sono stati estrapolati, come dice lo stesso proprietario della biofattoria sociale. Vabbè, ma adesso sta biofattoria, poveri pavoni, non vogliamo. Ma è vero che il costo totale però di tutte le commissioni, di queste missioni, sono 342.000 euro. Questa è la cifra, almeno presidente, che ci può confermare. Sì, è questa è la cifra. Però dobbiamo anche. Beh, non è male come cifra, abbiamo... 342.000. No, è una cifra che secondo me è alta, pare dimensionata. Ma dobbiamo dire che noi siamo al governo di questa città e come consiglio comunale ci siamo insediati solamente in pratica da settembre, siamo insediati a luglio, abbiamo iniziato la nostra attività a settembre, abbiamo un atto dall'amministrazione, dal sindaco sull'assegno di rilievo, abbiamo una delibera pronta che sicuramente tratteremo tra qualche settimana, in cui ridurremo le commissioni già per voto proprio da 8 a 6. Meno male. Di costo di ben due no, meno male, anche perché le commissioni, qualcuno dice che sono. No, ma infatti, anche perché qualcuno dice che le commissioni, spesso le commissioni parlamentari, l'abbiamo visto anche in altri comuni, servono solo a fare riunioni per poi prendere i gettoni di presenza. Dai, diciamo la verità. Non sto parlando del caso di Acireale, come non sto parlando del caso, tutti poi dicono no, noi le facciamo, ma in realtà sono usciti scandali e ne abbiamo parlato anche qui di commissioni comunali che sono fatte con addirittura consiglieri comunali che fanno parte di queste commissioni che arrivano, era successo a Genova, arrivano, timbrano in un caso senza neanche togliersi il casco del motorino, arriva, timbra, fa la firma, se ne va, due minuti, così risulta presente e si becca il gettone. Sono sempre quei magari 30, 40, 50 euro che alla fine del mese sommati danno una bella cifretta. Comunque vi ringrazio sul caso di Acireale, ora andiamo al traffico, poi ci sono i nostri lavoratori. Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta... Lavoratori! Chi non lavora... Eccoci qui, dopo il lavoratore di ieri ci siamo ripresi con il nostro Gabriele che salutiamo con affetto, ci siamo ripresi con grande tenacia perché continuano a mandare ad arrivare mail alla nostra redazione 24 mattino e radio24.it di chi ci vuole raccontare il proprio lavoro perché lo fa con passione, perché è un lavoro magari che ci stupisce, curioso, bello, nuovo, per il quale possiamo scoprire cose nuove. Oggi voglio salutare Marco. Marco, buongiorno. Buongiorno Alessandro e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, devo dire che Marco ci ha mandato delle foto bellissime che tra l'altro potete trovare sul nostro sito www.radio24.it e Marco fa lo scenografo progettista di parchi di divertimento. Cioè, esattamente. Cioè tu proprio fai le chiamo le giostre, ma forse non so, le attrazioni, cioè le disegni. Sì, no, io non faccio le giostre, progetto tutta l'ambientazione tematica del parco, anche il parco stesso progetto. Ah, fantastico. Per capirci, sono un po' scenografo, un po' illustratore, scultore, modellista, un po' architetto e soprattutto anche consulente, perché questo è un settore molto delicato nel quale non ci si improvvisa e quindi tengo le mani in pasta un po' su tutto. Tengo le mani in pasta, non è male. No, ma abbiamo visto delle foto anche che fai delle mentre sei proprio lì a fare delle piccole sculture che poi sono in miniatura quello che poi ritroviamo nei grandi parchi di divertimento. Esattamente, in miniatura, ma poi in passato le ho realizzate anche in grande, anche se adesso non ti nascondo che avendo una dimensione aziendale abbastanza piccola ho bravi collaboratori, ma... La parte più importante è sicuramente la progettazione. Ho fatto tante realizzazioni in passato perché per arrivare a fare delle creazioni che funzionino bisogna anche conoscere bene i materiali, conoscere bene la struttura dell'attrazione, certo. Come funziona. Però fammi capire, cioè tu la disegni o il parco, disegni anche la singola attrazione, poi... Sì, dalla mascotte fino alla singola attrazione, fino anche al master plan di un intero parco. Perfetto. Allora, veniamo all'attrazione, soprattutto quelle, non so, che fanno, non so, le montagne russe, no, per capire, oppure quelle legate molto all'adrenalina, al brivido. Com'è? Guarda, quelle sono le classiche giostre. In Italia abbiamo le aziende, alcune tra le più importanti del mondo, come la Zamperla di Vicenza. E come no, è vero. Io invece proprio progetto quella che è l'ambientazione. Ti faccio l'esempio di un'attrazione grossa che abbiamo realizzato per un parco che ho praticamente vestito interamente io, che è un grosso parco acquatico tematico di Jesolo. L'anno scorso abbiamo creato tutto un villaggio dedicato ai pirati dove si possono fare battaglie d'acqua con cannoni ad acqua tra fortini, relitti di galeoni, cascate d'acqua alte 6 metri. Ma ecco, dove ti viene? Cioè, sei rimasto un po' bambino dentro questo? Sì, beh, è una passione, posso dirti che è un sogno realizzato, perché io fin da bambino, fin dalle elementari, volevo fare questo lavoro. No, è fantastico. E quindi è un po' una missione, l'ho coltivata ed è cresciuta nel tempo e poi sono diplomato a Brera in scenografia e quindi l'ho fatto proprio professionalmente, con serietà. Ecco, lavoro. Appunto, perché che tipo di percorso hai fatto, cioè, per arrivare a fare questo? Io ho fatto prima una scuola d'arte alle superiori e poi sono passato all'accademia e contemporaneamente ho iniziato a lavorare nelle aziende che creavano le attrazioni dei più grandi parchi, da Gardaland e così. Poi ho fatto anche una piccola incursione in Disney, sono stato selezionato come pittore, ho avuto modo di studiare, di conoscere i parchi americani più importanti del mondo dal di dentro. Come pittore? Sì, come pittore, facevo le riproduzioni dei quadri antichi, però questo mi ha dato modo di potervi... Lo dici come se fosse una pacchianata, però no, ma perché? Beh, effettivamente... Un po' sì, un po' era una pacchianata, però ti permetteva di vivere, cioè che facevi, in che senso? Ma, facevo le riproduzioni davanti al pubblico di quadri tipo Leonardo, non so, la dama con l'ermellino di Leonardo... Ah, fantastico, mettevi lì a rifare la Gioconda... Però non so nel tempo libero andavo a visionarmi il reparto di progettazione dei parchi e quindi poi sono tornato in Italia... Con un bagaglio di conoscenze e di esperienze che mi ha arricchito. Ovviamente sarei stato vestito tutto come Leonardo, no? Sì, ero vestito. È chiaro, no? Perché uno arriva. Pittore rinascimentale. Arriva, che ne so, a Disney World e vede Leonardo che dipinge la dama con l'ermellino. Certo, ti mettevi lì. Beh, non è neanche facile. Io che non so disegnare neanche un gatto, per esempio, non ce l'avrei fatta. Ecco, quindi come dire. Vabbè, ma qual è il progetto che hai in mente più funambolico, più straordinario, quello più visionario che vorrei fare come parco? Allora, guarda, c'è un progetto che è nato su mia iniziativa, l'ho presentato al papà di uno dei personaggi del fumetto più importanti d'Italia, purtroppo non posso ancora svelare c'è un discorso appunto di contratti, però diciamo in questi anni abbiamo progettato un format di parco che non ha ancora collocazione ma verrà presto presentato agli investitori, un grande parco. E questo speriamo di poterlo vedere realizzato presto. Una cosa sulla quale sia io che appunto il fumettista papà di questo personaggio nazionale popolare. Molto. Allora Marco, io per concludere non so, ma tu ti devi fare pubblicità, c'hai un sito, c'hai... no, tu sei un dipendente, cosa no io ho il mio studio che si chiama Ozlab Fan Factory, dal nome del mago di Oz, il laboratorio del mago di Oz. Ozlab, cioè il laboratorio del mago di Oz, sì. Fantastico. Hai un sito internet? Sì, è www.ozlab.it. Ozlab, semplice, no? Oz come il mago di Oz e lab come laboratorio. Va bene Marco, sei stato simpaticissimo, scenografo, progettista di parchi di divertimento. Grazie per essere stato con noi. Se volete raccontare il vostro lavoro, 24 mattino è radio24.it. Noi saremo in onda anche domani, saremo in onda anche il 1° maggio, Devosciati. A domani. We'll